Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Ed eccomi, ora, alla parte più commovente della mia storia. Riferirò gli eventi che mi hanno tramutato da quello che ero in quello che sono. La primavera avanzava rapidamente. Il tempo divenne bello, il cielo senza nuvole. Mi sorprese vedere come ciò che prima era stato triste e spoglio si rivestisse ora di splendidi fiori e di verde. I miei sensi furono deliziati dai fluvi inebrianti da mille spettacoli superbi. Era una di quelle giornate in cui i miei vicini si riposavano dal lavoro. Il vecchio stava suonando la chitarra, i figli lo ascoltavano. Mi accorsi che Felix aveva un'aria melanconica oltre ogni dire. Sospirava spesso. Una volta il padre interruppe la musica e dai suoi modi compresi che chiedeva perché mai il figlio fosse tanto triste. Felix rispose in tono lieto, e il vecchio stava per ricominciare a suonare, quando qualcuno bussò alla porta. Era una signora a cavallo, accompagnata da un contadino che le faceva da guida. Indossava un abito scuro e aveva il viso coperto da un fitto velo nero. Agatha le chiese qualcosa e la signora rispose, pronunciando con accento soave, il nome di Felix. La sua voce era musicale, ma diversa da quella dei miei amici. Udendo questa parola, Felix si avvicinò in fretta alla signora che, appena lo vide, scostò il velo e io scorsi un viso di bellezza ed espressione angelica. I capelli erano di un nero corvino e stranamente acconciati, i suoi occhi scuri e dolci anche se vivaci, i suoi lineamenti regolari, il suo incarnato meraviglioso, le sue guance deliziosamente rosate. Quando la vide, Felix sembrò impazzire di gioia. Ogni traccia di dolore scomparve dal suo volto, che subito assunse un'espressione di felicità estatica di cui non lo avrei mai creduto capace. I suoi occhi scintillavano mentre le sue guance arrossivano per il piacere, e in quel momento mi parve bello non meno della sconosciuta. Ella appariva in preda a sentimenti contrastanti. Versando qualche lacrima dagli splendidi occhi, tese una mano a Felix, che la baciò con slancio, chiamandola, a quanto potei comprendere, la sua dolce araba. Ella parve non capirlo, ma sorrise. Felix la aiutò a scendere di sella e, dopo avere accomiatato la guida, la accompagnò in casa. Si svolse una breve conversazione fra lui e il padre. Poi la giovane sconosciuta si inginocchiò ai piedi del vecchio e gli avrebbe baciato una mano se egli non l'avesse sollevata e abbracciata affettuosamente. Non tardai ad accorgermi che, per quanto pronunciasse suoni articolati e sembrasse avere un linguaggio suo, la sconosciuta né comprendeva né era compresa dai miei vicini. Fecero molti segni, ma non mi riuscii di afferrare ma vidi che la presenza di lei diffondeva felicità per la casa, dissipando ogni loro dolore come il sole dissipa la nebbia mattutina. Felix sembrava particolarmente lieto e salutava la sua araba con sorrisi di gioia. Agata, la buona Agata, baciava le mani della bella straniera e, indicando il fratello, faceva segni che mi parvero significare che egli era stato infelice fino a quando non era giunta. Passò così qualche ora e nei loro volti si leggeva una gioia che non riuscivo a spiegarmi. Dal frequente ricorrere di un suono che la straniera ripeteva imitando i suoi ospiti, mi accorsi che si stava sforzando di imparare la loro lingua e subito mi balenò l'idea che avrei potuto valermi di quegli stessi insegnamenti per il medesimo fine. Nel corso della prima lezione, la straniera apprese circa 20 parole. Per la maggior parte si trattava di parole che già conoscevo, ma approfittai delle altre. Quando venne la notte, Agata e la straniera si ritirarono di buon'ora. Al momento di separarsi, Felix le baciò la mano e disse: «Buonanotte, mia dolce Safi». Rimase alzato a lungo a conversare col padre e, dal frequente ricorrere del nome di lei, intuii che la bella ospite era l'argomento della loro conversazione. Provavo un desiderio ardente di comprenderli e concentrai verso questo scopo ogni mia facoltà, ma la cosa mi riuscì impossibile. Il mattino seguente Felix uscì per andare al lavoro e, come Agata ebbe terminato le sue solite occupazioni, la giovane araba sedette ai piedi del vecchio e, presa la chitarra, suonò alcune arie di così incantevole bellezza da strapparmi lacrime di dolore e di gioia. Cantò e la sua voce era meravigliosamente modulata, levandosi e spegnendosi come quella di un usignuolo dei boschi. Come ebbe terminato, tese la chitarra ad Agata, che sulle prime la rifiutò. Poi suonò un'aria semplice e la sua voce la accompagnò con accenti dolcissimi che nulla però avevano a che fare con il meraviglioso canto della straniera. Il vecchio appariva estasiato e disse qualche parola che Agata si sforzò di spiegare a Safi. Sembrava che egli volesse dirle come la sua musica gli aveva procurato sensazioni deliziose. I giorni ora passavano tranquilli come prima, con la sola differenza che la gioia aveva preso il posto della tristezza sul viso dei miei amici. Safi era sempre gaia e felice, sia lei che io. Facevamo rapidi progressi nella conoscenza della lingua, tanto che in capo a 2 mesi cominciai a capire quasi tutte le parole pronunciate dai miei protettori. Intanto anche il terreno brullo si era coperto di erba e le distese verdi dei prati erano tutte un ricamo di fiori, dolci all'odorato e agli occhi, stelle dal pallido chiarore nella luce lunare dei boschi. Il sole si fece più caldo, le notti più chiare e profumate, e il mio girovagare notturno divenne per me fonte di immenso piacere, anche se si era abbreviato di molto per il ritardo del tramonto e l'anticipo dell'alba. Mai, infatti, mi arrischiavo a uscire di giorno, perché temevo di ricevere la stessa accoglienza che mi aveva salutato al mio ingresso nel primo villaggio. Trascorrevo i miei giorni nello sforzo di riuscire a padroneggiare al più presto la lingua e posso vantarmi di avere progredito più rapidamente dell'araba, che capiva pochissimo e si esprimeva con difficoltà, mentre io sapevo ripetere quasi tutte le parole che venivano dette. Mentre miglioravo nel linguaggio, imparavo anche la scienza delle lettere, a mano che essa veniva insegnata alla straniera, e ciò aprì innanzi a me un campo vastissimo di meraviglia e di diletto. Il libro di cui Felix si serviva per istruire Safì era Le rovine, ossia Meditazioni sulle rivoluzioni degli imperi di Volney. Non avrei compreso il significato di quest'opera se Felix, leggendola, non l'avesse spiegata nei minimi particolari. Aveva scelto questo volume, disse, perché il suo stile declamatorio si modellava su quello degli autori orientali. Da quel libro ricavai una conoscenza approssimativa della storia e un'idea degli imperi che esistono attualmente nel mondo. Mi diede una nozione generale dei costumi, dei governi e delle religioni delle diverse nazioni della terra. Seppi così dei pigri asiatici, del genio stupendo e delle attività intellettuali dei greci, delle guerre e delle meravigliose virtù degli antichi romani, della degenerazione che seguì, del declino di quel possente impero, della cavalleria, del cristianesimo e dei re. Seppi della scoperta dell'emisfero americano e piansi con Safì sul tragico destino di quegli aborigeni. Queste meravigliose narrazioni mi ispirarono strani sentimenti. Poteva essere l'uomo a un tempo possente, virtuoso, magnifico, eppure così malvagio. A volte appariva il semplice erede di principi malvagi, altre tutto ciò che di nobile e divino può essere immaginato. Essere grande e virtuoso appariva l'onore più alto che può toccare una creatura dotata di ragione. Essere vile e malvagio, quali erano molti di coloro che venivano ricordati, sembrava la cosa più degradante, condizione più abbietta di quella di una talpa cieca o di un innocuo verme. Per lungo tempo non riuscii a concepire come un uomo potesse spingersi ad assassinare il suo amico, o anche perché ci fossero leggi e governi. Ma come udii i particolari del vizio e del delitto, il mio stupore cessò e mi ritrassi con disgusto e ribrezzo. Conversazione dei miei vicini mi apriva ora nuovi e meravigliosi orizzonti. Mentre ascoltavo le spiegazioni che Felix dava all'araba, mi si chiarivano gli strani rapporti della società umana. Sentii parlare di divisione di proprietà, di ricchezze immense e di squallida miseria, di rango, di discendenza e di nobiltà. Tali parole mi indussero a pensare a me stesso. Seppi che l'attributo più stimato dai tuoi simili è una discendenza nobile e incontaminata, unita alla ricchezza. Un uomo poteva essere rispettato per queste doti soltanto, ma se non possedeva né l'una né l'altra, veniva considerato, salvo rari casi, come un vagabondo, uno schiavo, costretto a sciupare le proprie energie a vantaggio di pochi eletti. E io, che ero, non sapevo assolutamente nulla della mia creazione e del mio creatore. Sapevo soltanto di non possedere né denaro, né amici, né proprietà di alcun genere. Inoltre ero dotato di un aspetto spaventosamente deforme e ripugnante. Non ero neppure della stessa natura dell'uomo, ero molto più agile di loro, potevo resistere a una dieta più rozza, il mio corpo sopportava meglio i rigori del freddo e del caldo, la mia statura era di gran lunga superiore alla loro. Quando mi guardavo attorno, non vedevo né sentivo parlare di nessuno simile a me. Ero dunque un mostro, una macchia sulla faccia della terra, qualcosa da cui tutti fuggivano, che tutti sconfessavano. Non posso descriverti l'angoscia che tutte queste riflessioni mi davano su me stesso. Cercavo di scacciarle, ma il dolore non faceva che crescere con la conoscenza. Fossi per sempre rimasto nel mio bosco natio e non avessi mai conosciuto o sentito altre sensazioni oltre quelle della fame, della sete o del caldo. Strana cosa è la conoscenza. Quando si è impadronita della mente, si apparvica a essa come un lichene alla roccia. Qualche volta provavo il desiderio di scuotermi di dosso ogni pensiero e ogni sentimento, ma avevo imparato che esisteva un solo mezzo per vincere il dolore: la morte. Uno stato che, senza conoscerlo, temevo. Ammiravo la virtù e i buoni sentimenti, amavo le maniere cortesi e le amabili qualità dei miei vicini, ma ero escluso da ogni rapporto con loro, e ciò che riuscivo a ottenere furtivamente, non visto e ignorato, non faceva che accrescere invece che soddisfare il mio desiderio di ridiventare uno di loro. Le buone parole di Agata e gli amabili sorrisi della bella araba non erano per me, non per me. I benevoli consigli del vecchio o la vivace conversazione dell'amato Felix. Miserabile, infelice. Altre lezioni si impressero su di me ancora più profondamente. Seppi della differenza dei sessi, della nascita e della crescita dei bimbi. Seppi quanto un padre apprezza i sorrisi del neonato e le vivaci birichinate del suo ragazzo. Seppi quanto la vita e gli affanni di una madre sono una cosa sola con il suo prezioso fardello. Seppi come la mente del giovane si ampli e acquisti conoscenza, sentii parlare dei fratelli e delle sorelle di tutte le varie relazioni che legano in mutui vincoli gli esseri umani. Ma dove erano i miei amici e i miei parenti? Nessun padre aveva seguito i giorni della mia infanzia. Nessuna madre mi aveva benedetto di sorrisi e carezze. Oh, se così era stato, tutta la mia vita passata era ora un punto oscuro, un vuoto cieco in cui non distinguevo nulla. Mai avevo visto un essere umano che mi assomigliasse o che affermasse di avere qualche rapporto con me. Che cosa ero? Questa domanda mi ossessionava di continuo e in risposta riceveva solo gemiti. Spiegherò presto a che cosa miravano questi sentimenti, ma lascia che torni ora ai miei vicini, la cui storia destava in me sentimenti così vari di indignazione, di gioia e di meraviglia, sentimenti però che concorrevano tutti ad accrescere il mio amore e la mia reverenza per i miei protettori, perché così, con innocente e dolorosa finzione, mi piaceva chiamarli.